dopo 8 stagioni in cui hanno vinto, continuare a trovare motivazione e forza per andare avanti non è né scontato né semplice. È per questo che ha lasciato loro in campo a celebrare questo scudetto, lei ha preferito defilarsi? No, era per paura della secchiata, era palese, era in agguato, quindi ho preferito aspettargli dentro, ma l'ho presa lo stesso. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E arrivo con scetticismo come dappertutto. Poi io nel calcio conosco un solo modo di togliere lo scetticismo: vincere e convincere. In ala, Higuaín! Higuaín, la Juve in vantaggio, colpisce ancora San Siro. Io ho smesso di fare un altro mestiere perché mi ero annoiato e avevo un'altra forte passione. Poi ci vuole anche i momenti fortunati, ad arrivare nei posti giusti ai momenti giusti, e riesci a fare di più di quello era la tua intenzione iniziale. Ma la mia intenzione iniziale era quella di vivere facendo qualcosa che mi appassionava. Parte il cross, secondo palo, c'è Ronaldo, rete! È salito in cielo Ronaldo! Lo più importante non sono i ricordi, sono le vittorie dell'equipo che ha fatto un lavoro fenomenale. Ronaldo, Audero non la tiene! Federico Bernardeschi e il gol del 2-0 può significare scudetto. Bisogna entrare un po' in punta di piedi e poi piano piano cominciare a cambiare le cose che ti piacciono meno, ma deve essere un percorso lungo, perché non è che puoi arrivare in una società che da 8 anni e vince e imporre di voler cambiare tante cose. Sarebbe, secondo me, sarebbe anche poco intelligente. Claudio Schiattone in redazione, Pietro Lacorte, Gianmarco Ferronati in regia, e qui comincia l'estate di tutti i convocati. L'estate di tutti i convocati non finisce mai, comincia questo mese insieme con un'ora e mezza invece di un'ora fino alle 15.30, quindi a disposizione anche e soprattutto per sentire voi. 800 24 00 24 comincia con la nona, una festa scudetto, chiaramente in tempi che non ci saremmo mai immaginati. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno. Radio Twitti sulla Juve o su altro? No, sulla Juve e sulla festa scudetto. Ieri l'ho vista, la festa ovviamente contenuta rispetto ad altri momenti, ma non certo per colpa della Juve. Sono tempi in cui non ci sono i tifosi allo stadio, in cui insomma è tutto un po' diverso. Però mentre vedevo quella festa pensavo a quello che in qualche modo dicevamo anche nei giorni scorsi, cioè se questa festa, se questo tappo di champagne finalmente stappato dalla Juve di Sarri riuscirà laddove secondo me nelle ultime settimane non si è riuscito a cambiare. Tanto io faccio fatica a sentirti causa vento, mi spieghi tra poco quando ci ricollegheremo anche dove sei. D'altra parte, oggi è il giorno, classico giorno dei pagelloni di fine campionato, però non li avevate mai letti in riva al mare. Volete la prova? Massimo Mauro, buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno. Dove sei? Io sono a Caminia, a Blanca Cruz, uno dei posti più belli della Calabria, un mare fantastico, un gelato stupendo, si mangia bene, meglio di così non posso stare. Sei un mascalzone perché mi hai anche mandato le foto, quindi posso, anche un video, posso testimoniare questo unendomi all'enorme invidia. Ma d'altra parte non sei solo. Dove sei tu, Pierluigi? Io sono, dovendo fare Cagliari Juve, mi sono portato in Sardegna con un certo anticipo, ecco, diciamo. Bravo, bravo. Che dobbiamo fare? La qualità della vita innanzitutto. No. Però a parte la qualità della vita, devo dire, so che l'appello, ho visto anche Della Valle sui giornali, insomma l'appello non serve a molto, però insomma in questa strana estate sento che insomma abbiamo il 93% di italiani che scelgono l'Italia. Devo dire che insomma qua ogni luogo è incredibile, ecco, quindi nella tragedia di quest'anno, a costo di sembrare retorici, banali e un po' stereotipati, però ecco, insomma, veramente che sia un'occasione per rendersi conto della meraviglia che abbiamo intorno, che non sempre ce ne rendiamo conto. Senti, nell'invidia folle per entrambi, Massimo, che voto dai a questo scudetto della Juventus? Beh, 10 perché è una cavacca, ma sì, perché bisogna considerare tutti e 9 gli anni. Dai, come fai a non parlare non solo di questa vittoria, ma di tutto quello che è stato? E poi, secondo me, ha vinto il DNA della Juventus contro la voglia di cambiamento che la Juventus stessa ha portato prendendo uno come Sarri, no? Perché la vittoria è figlia del DNA della Juve, perché ancora, diciamo, il gioco, il divertimento, le belle azioni, i bei gol non li abbiamo visti. Abbiamo visto una vittoria che ha grande dignità, grande intelligenza da parte di Sarri a gestire i giocatori come ha fatto, con qualcuno ci è riuscito un po' meglio, con altri un po' meno, però questa è la vittoria della Juventus, perché cambiano tutti e non cambia la società. Sì. Ha cambiato i giocatori, ha cambiato allenatori, solo il presidente è sempre lo stesso, poi gli altri sono cambiati quasi tutti, se non negli uomini, nei ruoli. Che punta la decima stella personale, traguardo pazzesco. E considerate che è l'unica squadra che ancora è italiana, di proprietà sempre della stessa famiglia. Certo, questo è un altro dato fantastico, secondo me. Però ammetti, è interessante, Pierre, che messaggio subliminale forse di Massimo Mauro ammette che questo conflitto esiste tra il DNA della Juventus da una parte e la voglia di qualcosa di nuovo dall'altra. L'abbiamo visto, ma in qualche modo era anche una cosa espressa, era anche una cosa esplicita, cioè un discorso che ho fatto mille volte. La Juve, quando ha scelto Sarri, ha scelto una strada diversa rispetto al suo passato, rispetto al suo DNA, rispetto alla sua tradizione, ha scelto un'idea di un calcio estetico che la rendesse più competitiva in giro per l'Europa. Insomma, non c'è dubbio, questo qui è il punto di partenza di questa stagione. Sì. Poi il punto d'arrivo per ora sono stati sicuramente due appuntamenti falliti, e adesso però l'intero campionato, che è importante, che merita tutte le sottolineature. Cioè, da questo punto di vista fanno bene i tifosi della Juve a non abituarsi, fanno bene i giornalisti a sottolineare i meriti di tutti, perché ci sono. Poi ti dico, io non è che ho visto, ma anche ultimamente, anche nel recente passato, non ho visto una squadra in progresso. Anche ieri non mi ha fatto impazzire, sinceramente. Però adesso, ed era il mio radio tweet di partenza, adesso vediamo l'effetto scudetto. Adesso vediamo l'effetto psicologico di questa cosa, che è il primo momento. Ieri Sarri nelle dichiarazioni ha detto: fateci godere questa notte, perché e in qualche modo non voglio dire si sia tradito, ma insomma umanamente, legittimamente, ha fatto capire che è stata dura, è stata forse più dura di come noi l'abbiamo vista da fuori. Senza dimenticare che c'è chi ne ha 29, c'è chi ne ha 28, 7, 6 o 5, per lui è il primo. Quindi per lui è il primo, ma lui ha fatto anche un buon lavoro. Io non sto dicendo, adesso è chiaro che la vera grande partita si comincia al 7. Ma non perché lo scudetto sia scontato, assolutamente. No, bisogna fare i complimenti a questa squadra e soprattutto a questa società, perché ha ragione Massimo. Cioè, se noi guardiamo questo scudetto, ci sembra quasi normale, quasi banale, uno dei meno prepotenti della storia della Juve, dei 9. Se guardiamo ai 9 e guardiamo a un percorso, a una cavalcata, a una crescita a 360 gradi, nell'area tecnica, nell'area amministrativa, nell'area manageriale, nell'area del marketing, tutto è cresciuto enormemente in questi 9 anni. Sicuro, tanto che la non mi ricordo chi ha scritto oggi che la Juventus è 20 anni avanti agli altri come progettazione, programmazione, strutture, eccetera, eccetera, e questo non si vede onestamente la fine di questo regno. Però è anche vero, Massimo, che il voto alla stagione, tu dai 10 a questo scudetto della Juve, tutto considerato, però non può prescindere da quello che succederà ad agosto. Non possiamo dimenticare che Allegri ha pagato con la panchina 5 scudetti. Allegri, 5 campionati, 5 scudetti, ha pagato con la panchina eliminazione con l'Ajax. Carlo, però quando si giudica la prestazione, io sono stato anche molto duro le prestazioni, con vittorie risicate, con gioco brutto, con situazioni che non condivido come il VAR, no? Così. Però poi quando giudico la stagione so quanto è difficile vincere, so quanto è problematico essere sempre in forma e dare sempre il 100%. Quindi il giudizio sulla stagione non può che essere con un voto massimo, perché riguarda il campionato. Uh-huh. Se venisse eliminata dal Lione in Champions League sarebbe un fallimento gravissimo, e su questo non ci piove. Ha un'impresa da fare, perché giocarla in queste condizioni non sarà facile per niente, perché quelli si difenderanno e la Juve ha questo fardello di affrontare una partita che in cui ha tutto da perdere. Quanto può pesare, Massimo, la disabitudine, l'assenza del ritmo partita per il Lione? Tantissimo, e mi auguro di non sbagliarmi, perché giocare una partita come questa, il problema è che si devono solo difendere, stringere gli spazi e buttare la palla avanti e sperare in un contropiede, è certamente questo più facile, che bisogna riconoscerlo, è più facile, no? Poi se vincono una partita con due contropiedi ha dignità quella vittoria come tutte le altre, però è certamente più facile farlo. Certo. Ma secondo voi, nel caso in cui non dovesse andare come ci auguriamo tutti, tornerebbe d'attualità il discorso relativo alla panchina di Sarri? Cioè, sarebbe confermabile un allenatore che dovesse uscire con il Lione agli ottavi in questo modo, pur con tutte le attenuanti del caso, con tutta la stranezza di questa situazione? Si potrebbe dire Sarri rimane alla Juve, punto e basta, e vediamo l'anno prossimo, Pierluigi? Guarda, ieri sera sentivo Alessandro Costacurta che diceva una cosa molto interessante, cioè la sensazione che ci possa essere addirittura l'apertura di un ciclo. Io non so se sarà così. Io penso però che se tu prendi uno come Sarri non lo puoi prendere a metà, cioè, proprio perché è diverso dal tuo DNA, è diverso dalla tua tradizione, necessita anche di giocatori di un certo tipo di filosofia per poter tirar fuori il meglio da se stesso. Beh, insomma, non puoi fare una rivoluzione a metà. Se fai una rivoluzione, ieri era il 26 luglio, la Moncada, se fai una rivoluzione devi farla per bene, e devi dare a chi questa rivoluzione te la deve fare gli strumenti giusti. Quindi l'unica cosa che non deve fare la Juve, che poi in qualche modo sarà quella di quest'anno per tutta una serie di motivi, è stare nel mezzo. E quindi o si decide di dare ancora più forza a Sarri, legittimandolo e prendendogli dei giocatori con la filosofia sarriana, o se no si fa una scelta diversa. E questo secondo me dipenderà da quello che noi non sappiamo, cioè dipenderà dal profondo dei rapporti. Noi abbiamo avuto Andrea Agnelli, nostro ospite, che ci ha raccontato un po' di cose su questo, però non sappiamo poi fino in fondo in realtà se c'è quella fiducia così profonda, perché sicuramente Sarri, e questo campionato lo dimostra, può vincere pure senza che la squadra si innamori del suo gioco e della sua mentalità. Lo può fare, l'ha fatto, e merita comunque i complimenti per averlo fatto. Però se tu prendi un allenatore così, secondo me devi abbracciare una strada, oppure non lo prendi. Citazione per citazione, il mio amico commercialista Carmine, che è uno juventino straordinario, che conosce tutto, dice che sarebbe molto strano se la Juventus cambiasse Sarri, perché deve ricominciare, no? Anche dopo una sconfitta, se sarà una sconfitta, deve ricominciare con lo stesso progetto per migliorarlo, per renderlo più difficile da contrapporsi alle altre squadre, perché poi un'altra vera cosa da dire, secondo me importantissima, è che gli avversari si sono sciolti come neve al sole. Vero. Cioè, il campionato italiano si deve porre questa domanda: chi può essere l'avversario della Juventus? E onestamente io non saprei rispondere adesso, perché Napoli, Roma e Lazio non hanno le proprietà capaci di fare concorrenza alla Juventus. Il Milan non si è capito niente, onestamente, da come si è gestito i momenti di difficoltà, quindi il fondo, non il fondo, investe, non investe, non si capisce. E poi il mio sogno sarebbe vedere l'Atalanta combattere contro la Juventus, ma può rimanere un sogno però. Sì, l'Inter? Ecco, l'Inter speriamo che Conte riesca ad aggregare molto meglio di quello che ha fatto quest'anno, perché se non porta dalla sua parte giocatori e società, e le ultime dichiarazioni non aiutano questo, se secondo me Conte farà fatica il prossimo anno ad avere un ambiente che lotta nella stessa direzione, e o hai questo o non vinci. Il tuo voto alla stagione dell'Inter invece qual è? 7. 7. Perché mi aspettavo di più, sì, perché io credevo che lottasse fino alla fine per lo scudetto. Invece, insomma, la sconfitta degli altri, la vittoria è soltanto dell'allenatore, la società non ha fatto quello che pensavo. E da una parte capisci chi può stare dietro a Conte, no? Così, perché stressa i rapporti con tutti per capire chi può stare insieme a lui, perché lui poi vince, secondo me è bravissimo. No, però per stare insieme a lui deve buttare giù un po' con amare, e speriamo che l'Inter e i giocatori ne siano capaci. Deve buttare giù anche qualcuno dalla torre, ho l'impressione. No, però alla fine, Pierluigi, questa stagione, se non abbiamo visto tanto Sarri, tanto sarrismo, abbiamo questa Juventus con quel conflitto interno che cui faceva riferimento Massimo Mauro, che ancora non si è risolto e non so se si risolverà almeno in questa stagione. Però abbiamo visto il massimo del Ronaldo possibile, Pierluigi. Sì, il massimo di questo. Sì, sì, il massimo di questo Ronaldo possibile. Cioè, io sono dell'idea che questo Ronaldo non sia quello di qualche tempo fa, ma perché stiamo parlando della vita. Stiamo parlando di un fuori classe da più di 700 gol in carriera. Però lui, e in questo c'è secondo me la sua grandezza, anche in una stagione che non è più quella di 3, 4, 5 anni fa, tira fuori tutta la sua leadership, il suo talento, la sua freddezza, i suoi gol. Insomma, Ronaldo ha fatto tanto, ma vicino a Ronaldo ci metto Dybala, che è invece la vera grande sorpresa della stagione, non perché Dybala non avesse questi colpi, i colpi ce l'ha sempre avuti, tant'è vero che qualche anno fa ci fu il paragone azzardato giornalistico dopo quello Juve Barcellona 3-0 con Messi, no? Che chiaramente è blasfemo, perché tutto quello che si paragona a Messi a parte Ronaldo è blasfemo in quest'epoca. Quindi no, secondo me Dybala è la vera grande rivelazione della stagione, ripeto, non perché non avesse questo talento, lo sapevamo che ce l'aveva, però veniva da un anno complicato, difficile, e secondo me questo è stato l'anno, e glielo auguro insomma, ma ho il fortissimo sospetto, è stato l'anno della sua crescita vera, della sua maturazione vera, cioè è diventato molto più leader, non più soltanto un giocatore talentuoso, ma un partiva da esubero, ha cominciato come un esubero, ed è voluto rimanere, che è un'ulteriore sottolineatura che va fatta. Chiaro. Dimmi, però Massimo, deve smetterla Pier di alzare le mani durante la partita contro un errore del compagno, volevo la palla meglio. Cioè, ieri Rabiot ha sbagliato due volte per il condizionamento di dover passare per forza la palla a Ronaldo. E almeno la seconda volta in quel contropiede dove era stato bravo a conquistare la palla doveva andare a tirare in porta lui. Invece gliel'ha passata ed era troppo esterno e poi Ronaldo è stato costretto a tirare sul primo palo. Questo per dire che un giocatore di quel livello non ha bisogno di le mani, perché tanto la palla la squadra gliela deve passare, perché è il più bravo di tutti. Ha una leadership talmente grande che non deve imporla. Sullo schema non possono mettere un altro a farlo tirare in porta. Sullo schema della punizione è chiaro che mettono a Ronaldo a ricevere la palla, no? Se mettessero un altro alla Juve sarebbero matti. Perché come calcia lui in quel di prima, senza doverla stoppare, cioè è pazzesco, perché sembra un gol facile, invece è un gol difficilissimo. Ecco, quindi vederlo sbraitare in campo per l'errore di un compagno è brutto. Detto da chi ha giocato con tre geni, no? Che si chiamavano Zico, Platini e Maradona. Quelli non sbraitavano quasi mai per l'errore del compagno. Neanche Platini? Platini un pochino di più, però sapeva poi fuori di. Senti, però gli altri due no. E sempre a chi ha giocato con tre geni chiedo, c'è chi dice, ad esempio Paolo Condò, ma anche leggevo oggi Sconcerti, che non vedremo la Juve di Sarri finché ci sarà Ronaldo, perché è troppo condizionante per il modo di giocare della squadra intera. Ma Sarri lo ha detto, no? Ha detto, io ho gestito con intelligenza i giocatori che avevo a disposizione. Se rimarrà Ronaldo dovrà fare la stessa cosa, sono d'accordo sia con Mario, il mio maestro, la persona che stimo di più in assoluto, Mario Sconcerti, e ha ragione, secondo me avendo Ronaldo devi sfruttarlo al massimo, e sfruttarlo al massimo significa far arrivare la palla in area di rigore, perché lui lì è una cosa, è diventato straordinario, cioè proprio, ecco, lui ha il DNA di trovarsi sempre al posto giusto al momento giusto, e poi tecnicamente è pazzesco, fisicamente ancora salta mezzo metro più degli altri, quindi è chiaro che se lo tieni lo devi sfruttare. Sì. Ecco, ma lui non deve rompere le scatole. Pierluigi? Sì, no, ma la sintesi è perfetta, però questo in qualche modo racconta e conferma la rivoluzione a metà, cioè si è scelto Sarri con una squadra, certo, che non è sarriana, ma legittimamente, perché non è che adesso la Juve sceglie Sarri e butta via Ronaldo, no? Ronaldo è una risorsa inestimabile da tutti i punti di vista, quindi questa cosa qui, questo è stato il tema della stagione, questo qui è stato il tema della stagione, cioè mettere Sarri e mettere la filosofia di Sarri a confrontarsi con un DNA storicamente diverso e con una squadra che aveva già vinto tanto, aveva legittimamente, poteva avere legittimamente anche un po' di pancia piena. E che nasceva con concetti diversi da quelli di Sarri. Sì, ma io comunque continuo a pensare, perché al di là dei giocatori tecnicamente o tatticamente adatti a un certo tipo di gioco, sia una questione di motivazioni, perché a questa squadra qui non puoi insegnare delle cose quando ne hanno fatte delle altre per vincendo tutto per n anni, quindi credo sia una questione proprio di disponibilità a fare determinate cose, no Massimo? Più che... Sì, però magari cambieranno due o tre difensori, prenderanno un po' di centrocampisti più aggressivi, vedremo cosa farà. Io ogni anno ha fatto molto, no? Non è mai stata ferma nel mercato, ha sempre cambiato parecchio. Secondo me quest'anno c'è il centrocampo troppo compassato, no? E Bonucci ha un anno in più, ha fatto più fatica a, diciamo, pensare immediatamente di andare a difendere in avanti. Hanno fatto un'annata fantastica, hanno vinto, stiamo parlando, diciamo, per il futuro. Ecco, quindi secondo me se risolveranno un po' di cose prendendo degli uomini giusti, anche con Ronaldo si può giocare 20 metri più avanti. Sì. Senti, prima di salutarti, c'è Maurizio De Giovanni che saluto e ringrazio. Ciao Maurizio. Ciao, ciao, buonasera a tutti, un abbraccio a tutti. Ciao. Senti, Sarri non ha portato alla Juventus la grande bellezza, ma lo scudetto sì. Quanto ti rode? Ma, capirai, il nono anno consecutivo mi rode ormai poco. Sono più preoccupato in generale per il calcio italiano, perché abbiamo delle percentuali bulgare. Io non credo esista nei campionati maggiori una sequenza così. No, non esiste, te lo dico già. No, non esiste. Non c'è nessuna setta adesso. Credo che mai dobbiamo andare, setta, però certo. Dobbiamo andare in Armenia, credo, o in posti del genere per trovare un predominio così, che non è una cosa che fa bene a nessuno, secondo me, anche alla Juventus non fa bene, perché non è performante, non è allenante, non prepara al palcoscenico europeo. È un po' una sindrome come quella del Paris Saint-Germain, no? Un dominio assoluto in patria che non si riflette però in identica. Io credo che uno come Sarri non sia stato preso certo per vincere il campionato. Penso che il campionato sia il minimo sindacale. Il distanziamento sociale perfettamente rispettato dai tifosi juventini ieri in piazza credo sia il perfetto emblema di tutto. Grande, questo. Grande. Però Maurizio, però non è che posso perdere apposta. No, certo. ci mancherebbe altro, ma è anche un po' un passeggio. Noi a Napoli abbiamo un bellissimo detto che non posso ripetere qui, insomma, ma il gallo fa più facilmente. sui cumuli di organica, no, dovrebbe essere servito da sprone agli altri, invece ogni anno si sciolgono come neve al sole. Come al solito la tua è l'analisi più diretta e precisa. Io credo che soltanto l'eccezione dell'Inter quest'anno, perché l'Inter mi pare abbia fatto investimenti tesi alla vittoria. Prendere Conte e prendere i giocatori che Conte ha chiesto, in primis Lukaku per esempio, era il sintomo di voler perlomeno sedersi a quel tavolo. È troppo facile, no? Fare i manager, sedersi, io vabbè tanto arrivo quarto, arrivo quinto, No, esatto. Il calcio, devi buttare il cuore oltre l'ostacolo, devi spendere un po' di più, devi tentare di guadagnare meno, di avere un conto in banca un po' meno ricco, ma soprattutto ricco, prendi ma giocatori pronti. Giocatori buoni. Pronti, non il ventenne che facilmente fra 3 anni rivendi con una plusvalenza enorme, ma prendere giocatori che possano già da oggi e qui dire qualcosa in quei termini. Detto questo, insomma, stiamo parlando di una squadra che la Juventus che ha fatto e fa investimenti enormi e quindi non... Sì, non è chiaro, non può essere colpa della Juventus se gli altri non arrivano al suo livello. Mi sembra che l'Inter sia assolutamente la prossima cosa grande, poi se ci riusciranno lo so, però sono d'accordissimo, è la società che si sta muovendo in quella direzione lì, e sentendo Maurizio mi viene proprio l'esempio del Napoli, anche parlando con Berinazzo, che tra l'altro insomma è napoletano, conosce perfettamente il bilancio del Napoli, sappiamo che il bilancio del Napoli è un bilancio assolutamente virtuoso. Dal punto di vista economico è un bilancio fantastico, perché è una società gestita veramente bene dal punto di vista manageriale, però è esattamente quello che dice Massimo, cioè poi alla fine qualche investimento in più in un'ottica di impresa in certi momenti è quello che ti fa fare il salto di qualità. Ma Pier, se sì. Io fossi un tifoso del Napoli sarei incazzato, nero, perché sono andato a investire soldi a Bari, che è una città importantissima, che quindi è un impegno oltre, anziché spenderli per il Napoli. Cioè, io sarei incazzato. Ma scusa, ma c'è il Napoli? Ma fai il Napoli. Non so se vincere il Napoli. Maurizio, sei incazzato? Io non tanto e non solo in questo, perché poi il Napoli è una società a fini di lucro e fa guadagnare bene l'imprenditore, come una società a fini di lucro deve fare. Io sono più perplesso sull'insistere su un certo tipo di giocatori. Un giocatore come Fabian Ruiz, un giocatore come questo Osimhen, un giocatore, quel tipo di calciatore che tu prendi manifestamente per rivenderli, perché li prendi a 22, a 23 anni, non nella prospettiva di tenerli 10 anni, no ovviamente, ma li prendi per rivenderli e li rivendi poi in effetti a cifre alte, penso a Lavezzi, penso a Ramsic, penso Cavani. A tutti i giocatori che sono Cavani, Guaid, tutti i giocatori che sono passati per Napoli comprati a X e venduti a X più Y, se fai trading magari gli scudetti non li vinci, tu dici non li vinci gli scudetti, ti mantieni stabilmente in Europa. Maurizio, sai qual è il problema però? Scusate, che non vengono i giocatori. Io quando sono andato dal Napoli dalla Juve al Napoli sapevo che il Napoli era una squadra che lottava per vincere lo scudetto. I giocatori buoni, adesso scusate se mi vanto, ma vanno dove si può tentare di vincere, certo. Vanno dove sanno che c'è un ambiente, perciò dico io che servono soldi, perciò gli investimenti andavano mirati a migliorare anche la squadra. È anche vero che oggi io mi chiedo e ti chiedo, Massimo, come chiedo a nella memoria perfetta di quando venisti tu a Napoli, ero solo un tuo tifoso primario. Però è anche vero che oggi chi viene in una squadra italiana, che non sia la Juventus, ci viene per passare altrove, perché nessuna squadra italiana... Se il Napoli incominciasse a comprare 3-4 top player, vedrai che arriverebbero poi. Ci vuole qualcuno che apra la strada, ti ricordi anche il Chelsea? Della sì, io credo che il Napoli quest'anno, mi ricordo quello che dicevamo in estate, poi le cose sono andate non bene nella prima parte della stagione, il Napoli abbia arricchito la sua rosa, l'abbia resa molto più profonda rispetto al passato. Io l'altro giorno ho commentato il Napoli e Gattuso sta facendo continuamente rotazioni di 7 uomini e la squadra è comunque competitiva, cioè dal punto di vista della profondità della rosa, della quantità di giocatori, il Napoli sta diventando veramente una realtà molto importante. Adesso deve fare 3-4 colpi, quello ma sì, competitiva insomma. In che? Competitiva per che cosa? Questo è poi il problema, sì. No? Perché poi tu su 38 partite, allora sulla singola partita il Napoli vince, se la gioca con chiunque. Io addirittura, guarda, a costo di farmi ridere dietro, e lo farò, ma io addirittura non escludo nemmeno la possibilità di fare una grande partita a Barcellona. Nessuno di noi la esclude. Sulla singola partita della gioco, sulle 38, no. Sì, però resta il fatto, Maurizio, che quel ruolo lì... Il Napoli quest'anno, la stagione, una stagione come quella che ha fatto la Lazio o come quella che ha fatto l'Atalanta, beh, però fare. Fare. Ce l'hanno, cioè, le corde. La cifra tecnica secondo me non è inferiore, però sono d'accordo, cioè, tornando al punto di partenza del ragionamento, è chiaro che 9 scudetti di fila dicono due cose: i grandi meriti di chi li ha vinti, complimenti, chapeau, ma anche una mancanza di competitività complessiva del sistema. Sì, questa cosa deve rappresentare sicuramente uno stimolo. E certo, ha ragione Maurizio, queste percentuali bulgare non depongono a favore forse certamente della stessa Juventus. Grazie Maurizio, grazie Massimo. Grazie a voi, ciao ragazzi, a tutti. Ciao Massimo, prima o poi scappo. E vengo a trovarti. Vado a buttarmi a mare, ciao. E con questa io lancio la borsa. Dopo questa lancio la borsa. Anche quest'anno la Juve gli ha fatto arrivare la coda in bocca a tutti. Poi ciao. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Alla fine di Dybala Ronaldo hanno giocato spesso insieme, ma non sempre. Per caratteristiche non è sempre semplice fargli convivere. Penso che alla lunga ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un percorso e alla lunga ce l'abbiamo fatta. C'è troppa severità con Sarri, è un allenatore che non ha ricevuto mercato da parte della società, è mercato dall'alto completamente toppato, subisce tatticamente la presenza di Ronaldo, che è un giocatore che è indubbiamente fortissimo, che è servito al marketing, ma che toglie varianti tattiche in campo e ha completamente prosciugato le casse societarie. Un calcio in cui un giocatore non può essere manco sostituito, che ha 35 anni, non è più calcio, è circoequestre. Circo equestre, dice l'ascoltatore. WhatsApp vocali 349-238-6666, numero verde 800-24-0024. Avremo mezz'ora da oggi per il mese di agosto in più per parlare insieme fino alle 15.30. Non mancheremo di dare ogni giorno anche un'occhiata al mercato dopo le 15. Quindi tutto questo per Luigi Parma, ancora collegato con noi. Rossano da Firenze, Luigi da Treviso, tanto per cominciare. Buongiorno Rossano. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io devo solo proporre un paragone così un po' azzardato, forse, diciamo, suggestivo. Sarri e Dybala da una parte e Sacchi e Roberto Baggio dall'altra, Stati Uniti 94. Diciamo, entrambi gli allenatori volevano proporre un calcio innovativo, staccato, diciamo, dai singoli talenti. Entrambi non ci sono finalmente riusciti. Ora Sarri ovviamente bisogna dargli un po' di tempo in più, però sono stati salvati, diciamo, tutti e due da due straordinari fuori classe, tra l'altro tutti e due piccoletti, di statura, rapidi, di grande talento. Ora, nel momento, diciamo, decisivo della stagione, siamo nuovamente a una situazione analoga, cioè Dybala si infortuna, tra l'altro alla coscia anche lui, ricordiamo, Baggio giocò con una coscia fasciata, ovviamente meno matto, la finale, e quindi siamo in una situazione, diciamo, si ripropone una situazione che, diciamo, può essere simpatico andare a vedere come finirà, se finirà meglio rispetto a diciamo USA 94 oppure no. Ecco, solo un parere. Questa è carina, cioè dipendono dal loro piccolo genio, nel loro tentativo di integralismo dipendono dal loro piccolo genio. Sì, ma questa è carina ed è in realtà una nemmeno troppo inedita, chissà quanti altri esempi andando a spulciare troveremo, perché comunque il genio nel calcio, che è uno sport, come tu ricordi spesso, a basso punteggio, dove quindi la singola giocata, la singola magata, no? La singola genialità può essere decisiva, e questa è una chiave estremamente importante. Io ho visto in quest'anno ho visto in Dybala dei segni di crescita a 360 gradi, anche nella disponibilità rispetto ai compagni. Quindi, oltre a quello che si è visto dal punto di vista appunto delle giocate, del genio, delle situazioni che ha risolto, secondo me c'è una crescita, ed è una crescita della quale è giusto riconoscere anche i meriti di Sarri, nel senso che così come ci sono dei difetti di fabbrica della Juve di quest'anno che imputiamo a Sarri, una certa deconcentrazione in alcune situazioni, poi le cose che funzionano, che pure ci sono, Sarri certamente le ha propiziate col suo lavoro, no, insomma, ma anche proprio Ronaldo ha vissuto una stagione migliore di quella passata, ad esempio. Sì, poi è vero che Ronaldo ha delle esigenze tattiche particolari, è vero che gli piace avere Benzema o Higuain, comunque il centravantone davanti che gli fa spazio e poi gli apre la porta e poi si leva, ci sono tutti quei meccanismi abbastanza complessi, però presi così come sono, io già lo dicevo all'inizio della passata stagione, no? Ancora con Allegri dicevo, ma insomma, a me Dybala e Ronaldo sono due che vederli giocare insieme, fosse un avversario avrei paura dal primo al 95esimo. Certo. No, e Sarri dice, ma sono giocatori che hanno caratteristiche particolari, difficile far giocare insieme. Come difficile? Deve essere la cosa più semplice del mondo far giocare insieme questi due. Uno che crea così tanto con l'ultimo passaggio e l'altro che finalizza. Luigi Treviso, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno e grazie. Volevo sottolineare un aspetto che è questo, cioè la mancanza della curva, quindi la mancanza del tifo e dei protagonisti di parte, cioè di Juventini in curva. Quanto può aver inciso aiutandolo Sarri dopo una coppa persa, una supercoppa persa, come diceva giustamente Pardo qualche giorno fa, una incredibile rimonta dall'1 al 2, dal 2 al 3 e viceversa, e così continuando, meglio. Quanto può aver aiutato Sarri non aver la curva che ti fischia, perché dopo pochezza tecnica che si è vista, dopo pochezza tattica, poca inventiva tattica, quanto può averlo aiutato questo? Io lascio rispondere per Luigi Pardo, che peraltro ha commentato diverse partite della Juventus allo stadio. Sinceramente sì, credo poco. Io credo poco, credo che anzi lo stadium, che è sempre pieno, ad accento altissima di riempimento, è uno degli stadi dove l'assenza del pubblico può aver fatto la differenza. Non lo so, guarda, forse allora vedo più il Milan, che sappiamo che insomma ha vissuto una parte di stagione non brillantissima all'inizio, forse, ma in ogni caso comunque sia, se anche ammesso anche che la mia teoria abbia una sua logica, e sarebbe soltanto un merito dei ragazzi e dell'allenatore, forse il Milan, con tutte le pressioni che ci sono addosso, con tutto l'amore dei tifosi abituati a grandi vittorie, sappiamo che insomma quando le cose vanno male ci può essere tanta pressione, può diventare quasi un boomerang, no? Tutta quell'attenzione, tutto quell'affetto. Ecco, il Milan forse potrebbe aver avuto un effetto così, partendo a fare spenti dopo il lockdown, ha vinto qualche partita, ha preso fiducia. La Juve direi di no, insomma la Juve è una squadra abituata a vincere in questi anni, ed è una squadra che secondo me anche ultimamente ha faticato tanto, cioè non è che abbia brillato in casa. Certo, Juve Atalanta magari col pubblico il pubblico poteva pesare un po', no? Invece è stata una partita in cui soprattutto nel primo tempo è stata sicuramente superata dall'Atalanta, al di là del risultato. Certo è che Pierluigi a festa scudetto come quella di ieri, ok, la mettiamo in un cassetto, ci cioè ricorderemo la sua tipicità, ma che sia la prima e l'ultima volta. Ma è una roba 26 luglio, è chiaro che diversa, gli stadi vuoti, cioè è tutto emergenziale quest'anno, però io credo che alla fine, insomma, mi ricordo il dibattito che abbiamo fatto per quei due terribili mesi, alla fine io ti dico, a me sono anche, poi, ieri ne parlavamo, mi sono anche piaciute le partite di questo periodo, strane, molto tecniche, poco fisiche, insomma è stato un calcio diverso, meno male che c'era, meno male che si è ripreso, meno male che sia stata questa festa scudetto, pur nella sua inquietante unicità. E nel desiderio di riportare i tifosi allo stadio, e secondo me nella consapevolezza che io personalmente avevo già, spero che adesso ce l'abbiano tutti, del fatto che il tifoso è centrale, che il tifoso è un protagonista dello spettacolo. Magari prima alcuni lo dicevano perché dovevano dirlo, ma non lo pensavano. Io credo che adesso se ne stanno accorgendo tutti, che lo stadio serve, che il tifoso serve, e quindi che merita rispetto, deve essere trattato, ovviamente poi quando sbaglia ci mancherebbe altro, ma deve essere trattato però con il rispetto per un ruolo che ha, che oggettivamente ha, perché senza il tifoso allo stadio non è la stessa cosa. Certo. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo parlare del fatto che la Juve è 20 anni avanti, no? La Juve non è 20 anni avanti, la Juve gode di privilegi che altri non hanno e ve li spiego. La Juve ha avuto lo stadio, che era lo stadio olimpico, quello dei mondiali del 90 pagato da noi, gratis, cosa che gli altri non hanno ancora avuto. Gli altri non riescono ad avere uno stadio, parlo di Milan, Inter, Lazio, Roma, Fiorentina. L'Udinese ce l'ha. Quindi lo stadio dell'Olimpico pagato da noi è stato dato alla Juve praticamente gratis, si è fatta lo stadio e gli altri niente. Una, due, hanno fatto 550 milioni di plusvalenze e poi un aumento di capitale di 350 milioni. Ditemi se ce lo fa Suning, il fair play gli salta subito. Com'è possibile che questi facciano queste cose e nessuno dica niente? Claudio, potete solo dirmi questo? L'Udinese, no, l'Udinese non possono fare cose no, che gli altri non possono fare, semplicemente questo, per non parlare degli altri. L'Udinese e Sassuolo hanno uno stadio di proprietà, che poi se poi parliamo della difficoltà di costruire uno stadio in Italia siamo tutti d'accordo, ma mi sembra che ci siano altri esempi di club che non sono la Juventus che uno stadio sono riusciti ad averlo, Pierluigi. Io credo, se non ricordo male, l'accordo con Comune di Torino per l'area delle Alpi è un, non vorrei dire adesso qua, chiamate Benignazzo, mi pare sia per 100 anni, 99 anni, sì. E credo sia stato pagato 25 milioni, adesso va a memoria, quindi potrei assolutamente, chiedo scusa se sbaglio, si può discutere insomma sicuramente se il prezzo sia stato congruo o meno, sul fatto che ogni comune ovviamente ha le sue regole, i suoi meccanismi e questo è indiscutibile, cioè voglio dire è tema se volete di un dibattito infinito, anche in Spagna ci fu una grande discussione su Valdebebas, a prima presa poi rivenduta dal Real Madrid, al Comune di Madrid, però quindi quando volete lo facciamo, anzi può essere interessante coinvolgere Beninazzo e qualcuno che ne sa di più su questi aspetti, visto che abbiamo un mese lungo da passare insieme per un'ora e mezza. Detto questo, io poi se devo valutare dal punto di vista manageriale quello che la Juve ha fatto in questi anni, insomma la Juve in questi anni ha dato lezione di management, questa è la verità. C'è poco da discutere, poi gli juventini saranno felici di questo, gli altri saranno meno felici, ma la Juventus in questi anni è cresciuta, sì, è cresciuta tanto, è cresciuta da tutti i punti di vista, ha decuplicato il proprio fatturato. Se poi in alcuni frangenti, cioè possiamo discutere su quanto valesse la continenza o il diritto di superficie delle Alpi, cioè ripeto, possiamo approfondire questo tema. Sì, ma quello lo faremo. Ma certo, con Benignazzo, con Giovanni Caruana sono estremamente preparati. Quello che possiamo valutare è che dal punto di vista tecnico e manageriale la Juve in questi anni ne ha sbagliate pochissime, questa è la verità. Pier, ti saluto, ti lascio ai tuoi impegni. Sì, citando Massimo Mauro vado a fare un tuffo e due. No, io invece mi diverto qui, vado avanti con tutti i convocati, no, vado avanti, ma con grande piacere. Viale Monterosa è bellissima, No, ti lascio fare un tuffo insieme da un'altra parte, ma come Massimo Mauro, sento il traffico, poi parlo con Giacomo Agostini del Motomondiale, poi dopo le 15 non c'è GR, andremo praticamente in continuità. Torneremo con altri discorsi di calcio, con gli ascoltatori, con Savia Iacobelli, con questioni di mercato. Insomma, state con noi. Non andate a fare tutto. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina, Tutti Convocati Radio 24, su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Abbiamo dovuto lottare per cambiare, ma sono anche questioni politiche e quindi abbiamo dovuto spingere molto con la Yamaha, assieme a Davide, assieme al mio team, per ricambiare il setting, perché la moto che ho usato, ecco, fino a domenica scorsa non è la mia. Purtroppo non ho potuto proprio spingere dall'inizio e sono rimasto lì perché vedevo il gruppone davanti che c'era Valentino. Se fossimo partiti più avanti sicuramente eravamo lì nella mischia, ma sta di fatto che ancora non abbiamo la situazione sotto controllo. Allora, ieri bella giornata, poteva pure essere qualcosa di addirittura più grande per il motociclismo italiano dopo la tripletta in Moto2, dopo che abbiamo visto Valentino Rossi tornare sul podio dopo 15 mesi praticamente, la Ducati ancora così così, c'era, tranne quella di Bagnaia che andava fortissimo, si è rotta, e ci sarebbe anche da chiedersi il motivo per cui in queste prime due gare c'è questa fragilità delle moto. Però li abbiamo sentiti Valentino Rossi e Dovizioso, che dopo la corsa non si sono tolti dei sassolini ma dei chiodi dagli stivali. Ciao Giacomo Agostini. Ciao a tutti. Senti, come valuti queste dichiarazioni partendo da quelle di Valentino Rossi? Io sono qui, se volete darmi una moto io corro, non è che sono l'ultimo pirla, se mi volete tenere datemi una moto che fa per me, se no parliamone. Ma difatti sono perplesso anch'io, perché ho corso anch'io per la Yamaha e normalmente mi facevano tutto quello che io chiedevo. Non so, sono cambiati i tempi, sono cambiati gli ingegneri. Perché io credo che anche una casa costruttrice, cioè è logico di ascoltare il pilota e dare quel che lui chiede, sì. Soprattutto nell'assetto, è il pilota che decide, non è l'ingegnere che decide. Quindi strano questo, perché dico Quartararo è andato molto forte, ha vinto due gare, Vignales anche lui è andato forte, è arrivato secondo. Perché a Valentino non lo ascoltavano. La domanda è: a te davano quello che chiedevi perché eri la stella del circo, no? Siamo sicuri che in questo momento alla Yamaha Valentino Rossi conti quanto Quartararo e quanto Vignales? Oppure se c'è da ascoltare qualcuno, magari ascolti quelli e questo meno? Beh, ma cioè, questo, la moto la fanno ed è uguale per tutti. Poi c'è la messa a punto, c'è l'assetto, c'è il bilanciamento, eccetera, che lo fa. Ogni pilota ha magari una guida leggermente diversa dall'altro, quindi ognuno se la mette a posto. Io questo non capisco. Non saprei cosa dire, perché strano che la Yamaha non ascolti le richieste di Valentino. Cioè, non è che Valentino abbia chiesto di cambiare la moto completamente, che vuole, certo. Cioè, è solamente una messa a punto che ognuno si fa, quindi è questo che non so. Invece la situazione alla Ducati come la valuti? E ti chiedo anche quanto pesa in questo momento da quelle parti la questione contrattuale di Dovizioso? Oddio, certo, la tranquillità in un pilota è molto importante, quindi essere sereno e sapere che ti vogliono, e sapere che ti vogliono bene, cioè tu rischi la vita, dai tutto, eccetera, perché insomma è una famiglia, perché ti vogliono bene, tu gli vuoi bene, loro ti vogliono bene. Certo, in questa situazione non so un pilota quanto possa dire vabbè do il 100% per chi. Perché poi mi mandano via, ecco, non so poi la situazione come sia, perché per l'amor di Dio magari raccontiamo delle cose, noi non conosciamo tutto, però visto così non fa bene. Ma indipendentemente da questo, però oggi è molto difficile, lo vedo, hanno corso una settimana fa sulla stessa pista, stesso caldo, eccetera, e uno andava forte e anche questa domenica si aspettava che andasse forte, invece è andato meno della domenica scorsa. Quindi credo che anche la moto sia molto molto, anzi rispetto ai tempi, forse è molto molto importante e conta molto, basta appena ci sia qualcosa che non funziona, perdi subito mezzo secondo, che è quello importante, certo, per farti andare nelle retrovie. Sì, a me viene difficile capire un po' la situazione a Ducati, no? Perché ieri Dovizioso ha detto praticamente siamo partiti da zero, abbiamo ricominciato qui da zero, come se non avessimo fatto niente per tutto questo strano periodo fino a quando siamo arrivati qui. Bene, ok. Questo ci può stare, magari è stato fatto qualche errore a monte, però tu guardi le due Ducati clienti, le due Pramac, che andavano sia la corsa di domenica scorsa che quella di ieri come le spie, no? Soprattutto con Bagnaia. Esatto, sì. Perché? Sì. Questo. Sì, che poi Bagnaia ha la moto dell'anno scorso, insomma, però per esempio Bagnaia settimana l'altra non ha fatto quel che ha fatto, quell'esplosione che ha fatto ieri, a parte la rottura che è una colpa sua, però dico ha lottato per il secondo posto, stava davanti a una Yamaha che tutti dicono oggi che è la migliore, quindi vai a capire. Io anch'io ho fatto per 20 anni questo mestiere, non riesco più a capire il perché Miller, che settimana scorsa ha fatto una grande gara e oggi ieri insomma non sia stato lì, ecco. Ieri errore, però ne abbiamo discusso quanto alle prestazioni delle clienti. Questo inizio di stagione sembrano più veloci di quelle ufficiali. Lunga discussione che abbiamo fatto anche a Sky l'anno scorso. Tu dicevi, vabbè, se corri con la Yamaha ufficiale o con la Yamaha Petronas, Yamaha ha un potenziale tale per cui può darti più o meno la stessa moto. Però è curioso vedere Quartararo che sta pettinando tutti quanti, anche Vinales. Sì, sì. Beh, perché adesso Quartararo ha la moto giusta anche lui, come quella di Vinales, quindi lì adesso è la sua bravura, effettivamente. Sta facendo delle gare veramente guidando. Io l'ho visto anche ieri, anche settimana scorsa, guida veramente un pennello, cioè un pennello alle curve. Mi ricorda un po' Jorge Lorenzo, penso quando ai tempi che veramente andava al 100%. Sì, senti, Quartararo 50, Marquez 0. Facciamo che correranno ancora 12 volte, no? Più o meno, perché alcuni gran premi possono essere aggiunti, però mi fido di Paolo Ciabatti quando mi dice: ascoltami, non saranno più di 14 le gare di questo mondiale così strano. Si parte da 50-0. Marquez, voleva correre già adesso, non abbiamo dubbi che correrà a Brno, in quali condizioni però è difficile ora capirlo. 50-0 può essere un vantaggio sufficiente per mettere un freno al dominio di Marquez? No, contro Marquez no. No. Purtroppo contro Marquez sarà dura, dipende, adesso dipende da Quartararo, che è l'unico che, appunto, avendo 50 punti, è l'unico che può contrastare il cammino di Marquez. Però Marquez, se va come andava domenica l'altra, prima della caduta le può vincere tutte. Io penso che sarà difficile, però insomma, visto l'andazzo, se le vince tutte vince il campionato del mondo. Sì, quell'altro arriva sempre secondo, ci mette 10 gare per raggiungere, insomma mi sembra una cosa difficile, ma può influire quella oggi come oggi ne mancano 11, quindi esatto. Però certo, anche per Marquez non sarà facile vincerle tutte dalla prossima in poi, ecco, quindi insomma, cioè, citerà un po' così col fiato sospeso fino quasi alla fine. Certo che per la Ducati, dopo una marea di secondi posti, nel momento in cui Marquez ha dei problemi, non essere lì davanti questo è un peccato, e non si capisce nemmeno perché, sembrava, adesso vediamo. Ci sono anche delle piste adesso che sembrano più adatte alla Ducati, speriamo che sia così, però Marquez penso che non, insomma, è difficile fermarlo, questo è il problema. Sì, sicuro. Un'ultima cosa, Mino, ti ha sorpreso il terzo posto di Valentino ieri? Ti ha sorpreso rivederlo competitivo? Beh, io come pronostico l'avevo dato terzo, per la verità, l'avevo dato terzo. È stato bravo, perché nonostante, insomma, 41 anni, fare una gara così bisogna dirgli bravo. Ho avuto anche un po' di fortuna, perché insomma si sono fermati sono arrivati solamente in 13, però insomma è il risultato che conta. Valentino ieri è arrivato terzo e dobbiamo dire bravo a lui, perché ha fatto una bella gara, insomma. Sì, glielo diciamo volentieri bravo al dottore. Grazie Mino, a presto. Okay, ti abbraccio. Ciao Giacomo. Ciao. Agostini. Allora, adesso ci fermiamo un attimo, brevissima pausa. Poi però andiamo avanti, non solo oggi, ma tutti i giorni che verranno di quest'estate, anche per ospitare voi. 800 24 00 24, WhatsApp vocali 349 238 6666, per dare, e lo daremo ogni giorno perché il mercato ci appassiona e ci tiene compagnia, un occhio al mercato. Ovviamente non parleremo solo di quello, parleremo di tutto quello che vorrete. Già vi dico che alla ripresa, dopo la pubblicità, ci sarà Sevilla Cobelli, direttore di Tutto Sport. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Sono Giulia Crivelli. Dal lunedì al venerdì, dopo il GR delle 7, per tutto agosto vi leggerò i titoli dei principali quotidiani italiani. Farò una selezione precisa ma non asettica di articoli di cronaca ed editoriali, con qualche incursione sulla stampa straniera. Una ginnastica mattutina per restare in forma, informati, critici il giusto e soprattutto curiosi. La rassegna stampa di Radio 24. tutti i giorni, dopo il GR delle 7, naturalmente su Radio 24. Tutti convocati. Ragazzi, la Juve è una squadra di fenomeni che vince da 8 anni. Tra un mese in Champions correranno molto, molto di più. Poi, siamo la Juve, non vinceremo mai la Coppa dei Campioni. Però vedrete che sarà un'altra musica. Gli stimoli fanno andare le gambe più veloci. Fa giocare Bernardeschi, non ridente, che in 3 anni ha fatto un gol. Povero Sarri. La Juve è una grande squadra, ma purtroppo ha dei giocatori che sono arrivati, lo disse anche Allegri. Sarri il prossimo anno vi stupirà tutti perché farà lui la campagna acquisti. Ah, questa la voglio vedere. I nostri ascoltatori WhatsApp vocali 349-238-6666, è un piacere salutare Silvia Cubelli, direttore di Tutto Sport, oggi attivissimo, ti ho visto fino a mezz'ora fa su con gli amici di Sky, ciao direttore. Buongiorno a te, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Tutto Sport. Hai sentito cosa ha detto? La Sarri farà il mercato da Juventus, ci crediamo? Diciamo che concorrerà a farlo, ma le scelte finali verranno come sempre fatte dalla società. No? Sicuramente sì. Credo che avrà voce in capitolo, ma siccome l'esperienza ci insegna e la società è il club bianconero che alla fine decide, mi pare che abbia già deciso, Kulusevski e Arthur sono lì a ricordarcelo, però certamente è in atto una strategia di rinnovamento e di ringiovanimento dei ranghi che è già cominciata il 31 dicembre scorso con un'operazione Kulusevski e proseguita con Arthur, senza dimenticare che Demiral ha 22 anni, che De Ligt compirà 21 anni il 12 agosto prossimo, che Dybala di anni ne ha 26, che Arthur di anni ne ha 23, e quindi credo che la strategia sia di largo raggio e di programmazione, come sempre accade in casa Juventus. Adesso, a mio avviso, il primo nodo da sciogliere dopo la Champions League sarà capire se Higuain rimanga oppure no. Perché di centravanti, a quel punto, credo che la Juventus debba prenderne due, non soltanto uno, non soltanto Milik, che è il primo candidato. Perché questo? Perché l'esperienza di quest'anno ha dimostrato che partito Mandzukic, e purtroppo con tutto quanto è accaduto dopo il Covid, se tu non hai una rosa che preveda almeno due titolari, anche tre per la Juventus, considerata la mole di impegni che deve affrontare, rischi di ritrovarti paradossalmente in ristrettezze. Sono curioso di sentire qual è la tua opinione sulla disputa filosofica secondo cui non vedremo la Juventus di Sarri fino a che ci sarà Cristiano Ronaldo, perché ti impone di giocare per lui, di giocare in modo che congeniale a Cristiano Ronaldo, quindi con le necessarie coperture, con un centravanti che fa certi movimenti, gli apre le porte, poi si sposta, con degli accorgimenti che rendono tutto quanto estremamente condizionante. Poi stiamo chiaramente parlando del più forte giocatore del mondo e di uno che questa stagione di gol fino adesso ne ha fatti 31, assommando poi anche quelli in Champions League. Esatto. Io credo che non esista nell'orbe terracqueo e nemmeno nella Via Lattea un allenatore che sia disposto ad affermare che Cristiano Ronaldo sia un problema. Cioè, secondo me chi sostiene questa tesi evidentemente è una concezione un po' astrusa del calcio. Questo è un fenomeno. È un fenomeno non soltanto per i gol che ha segnato, tu li hai ricordati, è il primo calciatore capace di realizzare almeno 50 reti in Serie A, nella Premier League e nella Liga Spagnola. Senza contare poi la sterminata moltitudine di primati che si diverte a stabilire e ad abbattere, nonché dei trofei che allinea in bacheca fra quelli individuali e quelli collettivi. Ma se non ci fosse stato Cristiano Ronaldo, che quest'anno ha portato 27 punti, perché basta ripercorrere il film della stagione per rendersi conto di quanto e quali siano stati i punti fondamentali portati in dote dai gol del portoghese, credo che oggi faremo altri discorsi. Sì, sì. Senti, la Juventus ha inaugurato la strada di una superstar all'anno, Cristiano Ronaldo, poi De Ligt, che comunque ovviamente con caratteristiche diverse ha una superstar molto costosa. Secondo te proseguirà su questa linea? Ma guarda, io penso che la Juventus con Kulusevski promette di ripercorrere le orme dell'operazione De Ligt, perché questo è un giocatore che ha soltanto 20 anni, che dispone di margini di miglioramento incredibili, che ha una duttilità tattica che consentirà a Sarri di impiegarlo come esterno d'attacco o alla bisogna in altri ruoli del fronte offensivo della squadra. Sono molto curioso di vedere all'opera Arthur, fermo restando il fatto che Bentancur, a proposito, quando parlavamo di linea giovane, a 23 anni, ha 23 anni compiuti nel giugno scorso ed è un titolare inamovibile dell'Uruguay da almeno 3 stagioni, e Bentancur raccoglierà l'eredità di Pjanic a centrocampo. Quindi io non mi aspetto un botto modello, non dico Cristiano Ronaldo, ma modello De Ligt, ma mi aspetto un ulteriore rafforzamento, soprattutto per quanto riguarda l'attacco e per quanto riguarda il terzino sinistro. Emerson Palmieri è il primo candidato, Luca Pellegrini rientrerà dal prestito cagliaritano. Terrei d'occhio Gossens, perché è un giocatore che piace molto alla Juventus, e non soltanto alla Juventus, ma anche al Bayern Monaco, lo Schalke 04. Sì, e dopo ti chiedo una cosa a questo proposito, però prima Aldo da Pisa, ascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno. Tre velocissime cose. La prima, che secondo me continuiamo tutti a sbagliare dicendo l'Inter ha buttato via lo scudetto con Sassuolo, perché anche la Juve ha buttato via 4 punti con Sassuolo, Bologna eccetera. Quello che è decisivo è stato lo scontro diretto. Non puoi pensare di vincere uno scudetto lasciando 6 punti alla Juve nello scontro diretto, vuol dire doverne fare 7 più della Juve con le altre squadre, perché non basterebbero neanche 6, ma 7 punti, perché c'è lo sconto diretto negativo. Seconda cosa, ho sentito anche prima Mauro continuare a dire che Allegri ha vinto 5 scudetti. Benissimo, ma dobbiamo anche ricordare 4 Coppe Italia, perché io ho notato in 25 anni di calcio, dal 96 a oggi, un quarto di secolo, la Juve ha vinto 4 Coppe Italia nei 5 anni di Allegri e 0 Coppe Italia negli altri 20 anni. Quindi è una cosa notevolissima, 80% contro lo 0%. Ultima cosa, volevo sapere, ma la scarpa d'oro, a quanto ho capito, da 2 punti per ogni gol sia in Italia che in Germania, ma non mi pare giusto, perché in Germania ci sono 4 giornate in meno, 34 anziché 38, quindi Lewandowski, poveraccio, perderà la scarpa d'oro perché ha 4 partite in meno a disposizione. Vi ringrazio, volevo sentire il direttore che stimo tantissimo, grazie. E io glielo faccio sentire, eccolo qui. Ma intanto aggiungerei anche gli altri 2 trofei del Supercoppa, perché Allegri nell'arco dei suoi 5 anni alla guida della Juventus ha allineato 11 trofei nazionali tra scudetti e coppe nella bacheca del Jay Museum. Quindi credo che pensare, come un anno fa una scuola critica continuamente reiterava il principio che Sarri avrebbe clonato il suo Napoli nella Juventus, operazione che non gli era riuscita al Chelsea, fosse fuorviante, perché non è possibile questo, perché gli interpreti sono molto diversi, perché è vero che un anno fa l'approdo di Sarri sulla panchina Juventus avesse suscitato molte aspettative per quanto concerne la qualità del gioco, però è altrettanto vero che questo allenatore, non vorrei venisse mai dimenticato, ha dovuto fare all'inizio un percorso in salita, durante la tournée intercontinentale, quella in Estremo Oriente, contrasse la polmonite, che gli impedì per un mese di lavorare, un mese molto importante, quello del precampionato, di lavorare giorno per giorno insieme con la squadra. E poi ci sono stati gli infortuni, poi c'è stato il Covid, poi c'è stato il confinamento, e tutto quanto noi sappiamo molto bene. Per quanto concerne la scarpa d'oro, il meccanismo è quello della proporzione tra il numero di minuti giocati e i gol segnati, quindi sono dei coefficienti, e purtroppo capisco il rammarico dell'ascoltatore, però è altrettanto vero che non dipende né da Lewandowski, né da Immobile, il regolamento della scarpa d'oro. No, di sicuro. Dipende. La notizia molto positiva per il calcio italiano è che c'è un grande attaccante, che peraltro è già diventato il miglior marcatore italiano di sempre in Serie A, con i suoi 34 gol, che è in lizza per la scarpa d'oro. Questa è una gran bella notizia, perché c'è l'alternativa nazionale. Sicuramente. Invece, per quanto riguarda l'Inter e le occasioni sprecate, è chiaro che i confronti diretti, tutti lo diciamo ogni volta, sono partite che valgono doppio, bla bla bla, però sono passati diversi treni. Non possiamo dire che con Sassuolo e Bologna un punto in quelle 2 partite l'Inter non abbia perso un treno. Ma io continuo a pensare che, al netto di quello, quando si è trovata con la Juventus in difficoltà, a me non è piaciuto l'atteggiamento con cui l'Inter ha giocato a Roma, partita difficile, pareggio, con la Fiorentina, partita difficile, pure pareggio con molte occasioni sprecate, però ha avuto un atteggiamento che non in linea con certe partite della squadra di Conte che ho visto, che arrivavano lì con sangue agli occhi e magari non facevano risultato, però ti davano una sensazione diversa. Beh, non è un caso che Antonio Conte abbia dichiarato, credo che questo atteggiamento gli faccia onore cavallerescamente, che il modello cui guardare, il modello per la costruzione di una vittoria tricolore, sia la Juventus. Conte è arrivato dopo Spalletti, dopo la gestione di Spalletti, che peraltro aveva acciuffato, sebbene in extremis, la qualificazione alla Champions League, e ha fatto grandi progressi. Sta costruendo una grande Inter. Sono convinto che la seconda stagione, la prossima stagione di Conte sulla panchina nerazzurra, sarà quella che imprimerà una svolta alle ambizioni della società. Mi auguro che in Europa League l'Inter, così come la Roma, arrivi fino in fondo. È chiaro, perché chiaro. È dal 99 che una squadra italiana non conquista quella che allora si chiamava la Coppa UEFA, che venne vinta dal Parma di Alberto Malesani. 21 anni sono trascorsi. Quindi credo che quest'Inter, soprattutto l'Inter delle ultime due partite, a me ha favorevolmente impressionato. Dopodiché vediamo cosa accadrà con il Getafe, un passo alla volta. Sì, sì. Direttore, per finire, di un competitor, ne parlavamo anche prima con Massimo Mauro, con De Giovanni, eccetera, che parlava di percentuali di situazione bulgara, no? Del campionato italiano, con una squadra che da 9 anni ha esteso questa egemonia e non ha nessuna intenzione di mollare lo scettro, e la sfida alla Juventus rimarrà il grande tema anche dell'anno prossimo. Il problema è trovare uno sfidante con le carte in regola per metterle in difficoltà. Tu dici l'Inter, se io ti dico l'Atalanta? No, io non dicevo soltanto l'Inter, ma guarda, l'Atalanta, dunque, l'Atalanta sotto la guida di Gasperini, che è arrivato alla quarta stagione consecutiva sulla panchina nerazzurra, ha inanellato un quarto, un settimo, un terzo posto, e adesso, come vediamo, l'ultima due giornate del campionato, capiremo se arriverà terza, nella seconda o quarta, ma stiamo già parlando di un traguardo pazzesco per la società, che per la seconda stagione consecutiva parteciperà alla Champions League. Ed è, io credo che dovremo mettere un giudizio sulla competitività in chiave tricolore dell'Atalanta al termine del mercato. Confermare tutti i grandi protagonisti di questi anni d'oro sarà il primo passo, tant'è vero che l'Atalanta ha già rifiutato sontuose offerte per Zapata, tanto per fare nomi. Quindi, così come i giovani che Sartori ha portato, occhio a Sutalo, perché è un giovane molto interessante, un ventenne difensore croato già nel giro della nazionale, che si sta affacciando alla ribalta del calcio italiano e darà grandi soddisfazioni. Io penso che l'Atalanta ha un'arma in più, una carta in più, si chiama Gasperini. Perché sì, se tu fai caso e se noi andiamo a ripercorrere quali fossero i giocatori della prima Atalanta di Gasperini, della quarta Atalanta di Gasperini, sono rimasti soltanto in 3. Sì, eppure sì. In questi 4 anni il tecnico torinese è riuscito a rendere sempre più competitiva la sua squadra. È un outsider, perché non partirà mai come favorita per lo scudetto, ma è un outsider di grande valore. Ma io credo che quest'anno non avesse esattamente quell'obiettivo lì in testa, quello di essere così competitiva. Aveva altre idee in testa, primo tra i quali il passaggio di un girone di Champions che era abbordabile, infatti è stato passato, e infatti il resto è storia. Però, cronaca. Carlo, perdonami, un girone di Champions che l'ha vista sconfitta nelle prime tre gare. Sì, ma infatti sicuramente. È stata un'impresa veramente. Però non penso fosse mentalizzata sul fatto di essere esattamente. No. Poi c'è un altro fattore, direttore, poi ti saluto, che l'Atalanta, vediamo chi conferma di questa squadra. Io credo che rimarrà la maggior parte di questi giocatori, e magari qualcun altro arriverà, ma poi a questo livello, questo livello di squadra non ha bisogno di fare trading, cioè non ha necessariamente bisogno di vendere. Ma ti basti pensare che l'Atalanta si è appena lasciata alle spalle il quarto utile consecutivo di bilancio, il terzo primato di fatturato, 186 milioni di euro fatturato del 2019, che non contempla gli introiti della Champions League, che dovrebbe fruttarle quando anche venisse eliminata nei quarti di finale, una cifra oscillante tra i 50 e i 52 milioni di euro. Tu hai già la garanzia di partecipare alla prossima fase a gironi, quindi è una società che ha fatto veramente un salto in alto. Certo, grazie direttore, a presto. È stato un piacere, grazie a voi. Piacere mio, Salvatore Comelli. Ciao. Allora, stamattina stavamo compilando la scaletta e ho detto a Claudia Schiettone: ma cerchiamo Boris Sollazzo, mi piacerebbe fare due chiacchiere con lui, però irreperibile. E allora abbiamo avuto il chiaro sospetto che oggi avesse staccato il telefono, e invece no, abbiamo pensato male di lui. Sollazzo, buongiorno. No, no, non ho staccato il telefono, sono alla Maddalena e purtroppo qui le cale hanno problemi di reperimento linea, non ho staccato il telefono. Purtroppo, purtroppo o per fortuna le cale hanno reperimento linea? Il lavoro che facciamo posso dire per fortuna, però posso dire una cosa, prima di prendere un po' in giro Sarri, posso dire che l'Atalanta ha già venduto. Perché Kulusevski, Pessina e Musa Barro fanno da soli 70 milioni di euro. Sì, bravo, hai fatto bene a ricordarlo, vero, vero. Quindi, insomma, ha già venduto molto più di quello che ha venduto anche negli anni passati, quindi sta alla grande, cioè, insomma, è un giocattolo perfetto l'Atalanta. Se non ci fossero i rigori a Torino parleremo dell'Leicester, voglio dire. Ma se il tuo ex allenatore ha detto che non è una cosa unica al mondo, nella storia dell'universo, avere una squadra così forte, così potente, così grande, che ha così tanti rigori contro, l'ha detto, no, l'ha detto tuo amico Sarri, mica io. Sì. No, ma infatti è per questo che Ronaldo è ancora in corsa per il, pur avendo fatto meno gol la sua azione di Immobile, solo perché gliel'hanno dati pochi, perché poi mi piace questo modo di guardare le cose, no? Ma lo facevo anche a Napoli, devo essere sincero, lo facevo anche a Napoli, di guardare solo i numeri che gli fanno comodo. Per esempio, una cosa che lui dice è quello che ha fatto, che diceva che aveva la media punti più alta tra tutti gli esordienti alla Juventus. Si è dimenticato di dire però che vincerà lo scudetto con, nel migliore dei casi, due punti in meno di punti che aveva fatto con il Napoli, che era arrivato secondo. Quindi questa Juventus è più scarsa di quel Napoli, lo dicono i numeri, cioè, voglio dire, è riuscito a fare peggio di se stesso, che non, è una cosa che ho visto fare a pochi. Io volevo fargli i complimenti, però, perché era difficile far vincere il sesto scudetto consecutivo ad Allegri allenando la Juventus lui, e invece ci è riuscito. Noto con piacere, amico mio, che non tirò per niente questo scudetto conquistato dall'ex comandante Sarri. Stai con me perché mi sto divertendo troppo. Traffico, ma torno subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a tutti convocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Sto parlando con Boris Lazzo, estremamente sereno, perché non glielo dà affatto che Sarri abbia vinto lo scudetto in casa della signora. Però Boris, l'ho fatto notare prima anche a Maurizio De Giovanni, che non sono riuscito a stuzzicare abbastanza, non ha portato però alla Juventus la grande bellezza che voleva. No, ma affatto. Guarda, io ti dico una cosa, chiedi a Maurizio, ma come a tutti i napoletani, se sono disposti a riavere Sarri indietro. Io avrei scommesso 1.000 euro che tutti avremmo detto di sì, anche solo l'anno scorso. Sì. Adesso tra Sarri e Gattuso non abbiamo dubbi, ed è anche in dubbio che il Napoli di Sarri giocasse meglio di quello di Gattuso. Però abbiamo visto che al Chelsea vince un'Europa League, in cui in semifinale c'è lo Slavia Praga, vince un'Europa League, ma dopo a febbraio aver preso 10 gol tra Manchester City e Bournemouth a 0. Alla Juventus ha vinto uno scudetto. Io sono serenissimo, ma sono molto sereno perché mi diverte molto questo scudetto, queste sue celebrazioni, perché è lo scudetto che forse neanche gli juventini riescano a festeggiare. Oddio, non è che festeggino quasi mai, sono 8 anni che osservano le misure del Covid, però dico, non credo che siano molto entusiasti. Cioè, Sarri out non l'ho inventato io, l'hanno inventato i tifosi juventini. Cioè, è riuscito a snaturare una squadra senza dargli la propria natura. L'unica cosa che devo dargli atto, ha mantenuto della capacità, delle caratteristiche juventini, del DNA juventino, è quello di perdere le finali. Con Lazio e Napoli l'ha fatto, e quello, insomma, è andato coerente anche con quello che c'era prima. Però per il resto, diciamo che questa Juve, secondo me, a un certo punto, se si fosse autogestita, ecco, con Buffon in panchina, non in panchina nel senso, sì, panchina come è stato spesso, con Buffon allenatore, probabilmente avrebbero fatto una decina di punti in più. Dal punto di vista della comunicazione rimane comunque il più improbabile degli allenatori da Juventus. No, beh, quello sono le gioie che ci ha regalato. Cioè, quando ha detto, ma questi rigori di solito li davano. Allora, io ho un sospetto, e per questo continuo a volergli bene, che Sarri sia andato alla Juventus per cercare di far vincere lo scudetto al Napoli. Sì, è quello cioè, che abbiamo detto al minuto zero, no? Per, esatto. Giusto per consolarvi. Cioè lui ci ha provato, ci ha fatto di tutto, cioè vincerà lo scudetto con meno di 85 punti, cioè, ha provato in tutti i modi a far vincere lo scudetto al Napoli, purtroppo il Napoli non si è proprio messo in campo, grazie ad Ancelotti, grazie alla annata più folle della storia tra ammutinamenti, multe, non multe e via dicendo, e quindi poi ci ha consolato regalandoci la Coppa Italia, che comunque insomma noi abbiamo trovato un albergo e siamo stati contenti così. Però è talmente assurdo quello che è successo in quest'anno, cioè tra la Juve che ha giocato male e credo raramente una squadra abbia perso così tanto, una squadra che poi ha vinto lo scudetto, e le sue dichiarazioni, che spesso erano dichiarazioni che insomma confermavano tutte le false coscienze delle altre squadre nei confronti della Juventus, che il dubbio che lui abbia deciso in maniera dadaista di entrare dentro il palazzo per farlo crollare ce l'abbiamo avuto. Io la speranza che ho è che adesso Agnelli gli rinnovi il contratto, perché se Sarri rimane altri 2 anni alla Juventus, secondo me ce la possiamo fare a interrompere questo dominio bianconero. È difficile, ma ce la possiamo fare. Io ti volevo girare un WhatsApp, vocale ne ho un sacco anche di iscritti, che è questo: Boris, l'invidia è un brutto male, non si cura neanche all'ospedale. No, ma hai ragione, benissimo. Guarda, io ti dico, guarda, una cosa, sono talmente poco invidioso del fatto che c'è Sarri, che se con una pistola alla tempia mi dovessero dire preferisci che torni Neo Sarri o Higuain, tu sai che insomma mentre verso Sarri umanamente non è che chissà che ho, diciamo, che tipo di rabbia ho, alla fine ha fatto una cosa che avrebbero fatto tutti, mentre Higuain almeno davanti a me mi ha battuto la mano sul cuore e poi se n'è andato con un ladro, io mi riprenderei Higuain. Cioè io vincerli così, devo essere sincero, non, però forse proprio perché ne ho vinti pochi ma buoni. Cioè io ho vinto 2 scudetti con Maradona. Higuain ne ha vinti 2 alla Juventus. No, sono contento, però cioè, 2 alla Juventus in quella maniera, peraltro, tra l'altro li ha vinti, bisogna dargli atto, grazie a se stesso, perché insomma senza la doppietta a Milano non l'avrebbe mai vinti, almeno da una parte col decisivo ne ha fatti, per fortuna. No, a me piace molto che ti sta ascoltando Massimo Zampini. Fantastico, ragazzi, però tutto questo ciao, rende tutto più bello. Ciao a tutti, ciao Boris. Questo sentire Boris così però rende ancora tutto più bello, se possibile. Lui ha vinto belli i campionati. No, è troppo bello, è tutto troppo bello. Che anni io che se fossi, no Massimo, io se fossi Sollazzo ti direi che questa festa scudetto fuori stagione è stata anche serena, perché stavolta non è la pomata per la scottatura. Se fossi Sollazzo, esatto, se fossi Sollazzo ti direi questo, poi non so se Boris ti vuol dire qualcos'altro. Ma no, guarda, con Massimo è fin troppo facile, perché sono 8 anni che continuo a dire sempre più bello, sempre più bello, sempre più bello, però lo vedo sempre più moggio poi alla fine, però almeno quest'anno è riuscito ad arrivare al 31 maggio ancora in Champions, che è una cosa bella comunque. No, ma io purtroppo ci sono arrivato anche altre volte al 31 maggio ancora in Champions, ma non è bastato neanche quello, quindi insomma non era quello il problema. Ho vissuto anche di Champions a giugno, ma non bastava. No, però ragazzi, la Champions distinguiamo, cioè c'è la presa in giro social, la cosa, vincere la Champions, che non diciamo da anni, diciamo ovviamente la Champions negli ultimi 10 anni ha vinto 3-4 squadre, cioè Real e Barça 20 volte, e poi appunto Bayern e Liverpool l'ultima volta, quindi quello quando capiterà e poco male. Lo scudetto è incredibile per me, io ve lo dico ogni volta, vincerlo 9 volte di fila, abbiamo meno stimoli, siamo più stanchi, e si rompe il capitano la prima volta, la prima partita per tutto l'anno, e cambi l'allenatore, e comunque c'è questa tragedia purtroppo che ha colpito tutti, non solo una squadra o l'altra, però che ha reso comunque il finale ancora imprevedibile. E per me pure questo vale ancora più dell'ottavo, che valeva più del settimo, che valeva eccetera. Però questo eccetera, non te l'aspettavi, di la verità. Questo infatti temevo di non vincere, ma io devo dire quasi sempre come quando mai caso. Quando mai Zampini si aspetta di vincere lo scudetto, scusami, pensavo di vincerli, perché dopo il primo e il secondo veramente credo che ripetere sia difficilissimo, e questo davvero avevo dubbi per il cambio di allenatore, di gioco, tante cose, vedevo la squadra un po' stanca già a fine ciclo l'anno scorso, temevo fosse molto molto complicato, e invece è andata. Senti, però posso chiedere a Zampini se adesso Sarri, che ne so, si svegliasse e si dimettesse dicendo che con una squadra con le 10 euro non vai in un ristorante da 100 euro e se ne andasse, lui stapperebbe una bottiglia di champagne o si dispiacerebbe? Sincero, sincero. No, io guarda, Sarri, del momento in cui ha vinto lo scudetto, io lo pensavo prima, io ho vinto lo scudetto, ne ho vinti tantissimi da tifoso, io ovviamente, non è che li vinti io, però li ho vinti con solo i 5 allenatori, cioè che sono poi dei miti, se ci pensate, che sono Lippi, Trapattoni, Capello, Conte e Allegri, dei miti per la Juventus. Non è che lo vincano, cioè vincere lo scudetto tu sei entrato nella storia della Juve, e quindi ogni mio dubbio su Sarri, che rimangono alcune cose, alcune diffidenze che avevo inizio stagione e tutto, ma viene comunque in gran parte dissipato, perché lui resterà nella storia della Juve come chiunque abbia vinto uno scudetto con noi. Nel senso che c'è una prova di forza, perché ho messo una Porzio Capo sulla panchina della Juventus e l'ho vinto persino con lui. Quello no, intendi. No, è un'impresa, ragazzi, vincerlo è difficile, quello che non capiamo ancora noi juventini, è difficile, è complicatissimo, lo so che abbiamo una rosa forte, quello che vuoi, ma tu ti trovi poi con tanti giocatori infortunati, con quello, con le squadre rivali che hanno più fame. È un inferno trovare stimoli. Senti, per però Massimo, ti chiedo ancora questo, anche perché ho un minuto, però voglio una risposta sincera. Ma se non dovesse andare esattamente bene con il Lione, confermiamo Sarri 100% senza dubbi, andiamo avanti così e vediamo se nasce la Juventus di Sarri? No, io il 100% non lo do, però ci ho detto, per me comunque lo scudetto non si può mai dire che sia un'annata non positiva, non molto positiva. Sì. È chiaro, l'uscita con Lione eventuale, che è una squadra molto inferiore alla Juventus dopo un'andata pessima, anche prima del lockdown, ricordiamolo, e comunque conterebbe, oltre più che le due coppe più piccole, anzi, complimenti al Napoli di Boris, però dico comunque non è quello che giudica, da quello che giudico la stagione, in Coppa Campioni quello comunque avrebbe un rilievo, però la stagione rimane comunque molto positiva con lo scudetto, ci mancherebbe altro. Ma la vince Massimo. Mi piace come ha detto le due coppe più piccole, eh. Ho pensato alla faccia del mio amico sul Lazio e... No, la vince, complimenti, però è vero. La vince la Champions, Sarri, perché l'hanno preso per il calcio europeo, quello è il calcio europeo. Grazie, ragazzi. Abbiamo tutta l'estate per parlarne, state in contatto, grazie Massimo, grazie Boris, ciao, voglio bene, ciao ragazzi. Grazie a Claudia Schiattone naturalmente, a Pietro Lacorte, a Gianmarco Ferronato. Ci sentiamo domani dalle 14 alle 15:30. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.